Quanta fame hai? E altra cosa da aggiungere, che magari non è il solito genere punk hardcore crust che facciamo ascoltare di solito, ma questa è una oi band. Comunque loro sono i Guerra. Sì, mandi a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zardins Magnetics. Allora, stasera partiamo in bomba, come si suol dire, con alcune letture. Allora, lo scorso giovedì, che era il 7 settembre, a Trieste si è svolto un presidio in Campo San Giacomo, un presidio in solidarietà sia con le compagne e compagni incriminati, redattori del quindicinale anarchico Bezmotivni e incriminati, e sia con le compagne e compagni del Trentino, anche loro incriminati per le pubblicazioni I giorni e le notti, Besnacali, eccetera. E in quel contesto, come è stato detto la scorsa settimana, c'è stata così una distribuzione, diciamo, in piazza delle pubblicazioni, appunto, sotto tiro dalla repressione, e anche di tante altra stampa anarchica. Quindi è stato un momento anche di diffusione così di strada, diciamo, di questi scritti. E nell'ambito, appunto, del presidio si è distribuito un volantino che adesso io vorrei leggervi. In solidarietà con la redazione del quindicinale Bezmotivni e contro la falsa tutela delle opinioni. In Italia nel 2023 i cosiddetti reati di opinione, apologia, istigazione a delinquere, vilipendio dello Stato e dei suoi simboli, vilipendio della religione, non sono solo un residuo del dispositivo repressivo del regime fascista. No, non sono solo questo. Sono stati intenzionalmente conservati nella Costituzione feticcio democratica per poter difendere lo Stato in caso di involuzione autoritaria, dicono ancora oggi dalle parti dell'ANPI. Gli epigoni dei combattenti partigiani, conseguentemente, credono nell'intervento della magistratura quando ci sono i fascisti da bloccare, in quanto attaccano l'ideologia democratica e il valore del lavoro. Quando pare non sappiano più che ideologia fascista del capitale e ideologia democratica del lavoro non sono opposte, ma promuovono insieme la base di questa società, la disciplina. Quando è risaputo che regolarmente gli interventi della magistratura non bloccano nessuna provocazione fascista, perché per sua definizione quella fascista è un'ideologia che intende glorificare stato forte, ruoli sociali definiti, rispetto della gerarchia. Oggi ci troviamo con i prosecutori del Movimento Sociale Italiano che corrono a soccorso di un generale dei corpi speciali dell'esercito, della Folgore specificamente, che ha affermato e scritto su un libro che chi è omosessuale non è normale e per questo si trova sotto procedimento disciplinare, reclamando la libertà di opinione in democrazia, e con i seguaci di Berlinguer in difficoltà perché la censura non è mai democratica. In tutto questo, lo scorso 8 agosto a Carrara, 9 compagni e compagni anarchici vengono sottoposti a gravi misure cautelari, quali arresti domiciliari e obbligo di dimora con rientro notturno, per aver pubblicato il quindicinale Bezmotivni e istigato a delinquere con finalità di terrorismo. Parallelamente a Trento, la magistratura indaga nella stessa direzione altri compagni e compagne per la redazione e la diffusione della rivista anarchica I giorni e le notti e dell'opuscolo Besnacali, sostenendo che le pubblicazioni siano legate a un'associazione sovversiva terroristica. I compagni e le compagne di Bezmotivni sono perseguiti dai magistrati perché hanno diffuso testi rivendicativi di azioni, sabotaggi e iniziative d'attacco da parte di rivoluzionari in tutto il mondo contro lo Stato e il capitale. Giornali, riviste, opuscoli sono per noi un indispensabile spazio minimo per elaborare e poi diffondere il nostro pensiero e le nostre lotte. L'ideologia neoliberista della libera espressione dell'opinione, in un ambito di tolleranza e partecipazione mistificata, va ancora una buona volta smascherata, perché le espressioni di libertà di questi compagni di Carrara e Trento comportano la concreta possibilità di conseguenze pratiche, cioè in termini di agire. Invece chi si richiama alla semplice libertà di opinione sa perfettamente che in carcere non ci finirà mai, perché elogia la libertà di mugugnare e il divieto a trarre conseguenze da questo lamento. Solidarietà con i compagni e le compagne anarchiche di Carrara e Trento, terrorista è lo Stato, clandestina è la stampa servita, anarchiche e anarchici. E tra l'altro in piazza appunto si è letto anche un articolo, brani di un articolo piuttosto lungo che vi invito ad andare a un documento veramente che vi invito ad andare a leggere integralmente sul blog Il Rovescio, che si intitola No, non abbiamo imparato la lezione, un documento che appunto analizza in maniera molto molto interessante, molto approfondita queste questioni. E visto che abbiamo nominato anche i compagni e le compagne di Trento e Rovereto, appunto inquisiti tra varie altre cose per le pubblicazioni Giorni e le Notti e Besnacalie, e ho il piacere di così aggiornarvi su questa operazione Diana, così l'hanno chiamata, questa operazione repressiva. Allora, il 12 di settembre, quindi un paio di giorni fa, c'è il Tribunale di Trento doveva esprimersi sulla richiesta di 12 misure di custodia cautelare, 9 in carcere e 3 divieti di dimora per altrettanti compagni e compagni anarchici, appunto nell'ambito dell'operazione Diana. I pubblici ministeri avevano già chiesto queste misure di custodia cautelare, che erano state rigettate dal GIP, però i PM hanno fatto ricorso, e quindi ecco perché c'è stata questa ulteriore udienza il 12 settembre. Beh, sono state tutte insomma rifiutate, quindi non ci saranno queste misure di custodia cautelare, tutte rigettate, ecco, dal giudice. Quindi ribadiamo questa cosa qua, che questo praticamente tra i vari fatti contestati per l'operazione Diana ci sono anche azioni contro l'alta velocità, e giustamente le compagnie e compagni del Trentino ci fanno notare che con l'inizio dei lavori del TAV e con i primi momenti di opposizione concreta a questo progetto disgraziato, i pubblici ministeri Raimondi e Ognibene hanno pensato bene di togliere di mezzo un po' di anarchici che appunto sono sempre stati parte attiva di questa lotta contro il TAV. E l'operazione Diana, l'inchiesta è stata aperta nel 2019, ma appunto prende le mosse precedentemente, addirittura nel 2013, anno delle prime pubblicazioni della pubblicazione anarchica Besnacalie, e appunto come analogamente al discorso di Besmotivni, anche questa nuova inchiesta mira a considerare espressione di un sodalizio terroristico l'ideazione, la predisposizione, la redazione, la stampa e la diffusione di pubblicazioni appunto anarchiche come Besnacalie, I Giorni e le Notti, Dietro le Quinte, eccetera, nonché del sito Il Rovescio. Ecco, comunque insomma, intanto questo primo colpo del 12 settembre è andato liscio. Sì, torniamo in voce, sempre Zernis Magnetics, sempre in diretta da Radio Onde Furlane che ci ospita qui a Udine. Allora, parliamo adesso di un documento, un appello, vero e proprio appello per una mobilitazione internazionale ed internazionalista contro la guerra in Ucraina. Sabotiamo la guerra, si intitola questo documento. È appena stato pubblicato, è frutto di vari incontri assembleari tra anarchici di varie provenienze, diciamo, geografiche, rimaniamo sempre nella cosiddetta Italia. Ecco, io volevo leggervi questo documento, non integralmente, un documento molto lungo, ma comunque iniziamo intanto la lettura perché affronta molte cose e poi soprattutto ha una prospettiva, promuove insomma appunto una mobilitazione. La guerra in corso in Ucraina non è un conflitto fra i tanti e men che meno una semplice guerra per le risorse, ma un capitolo centrale di un più ampio scontro tra blocchi di paesi capitalisti per la spartizione del mondo, in cui sono in gioco la supremazia economica, militare, tecnologica e la ridefinizione degli equilibri internazionali. Infatti, mentre in Ucraina si combatte da più di un anno e mezzo, si profila sullo sfondo lo scontro militare con il principale avversario del capitalismo occidentale, la Cina. Dire che siamo sul piano inclinato, che può puntare a portare alla terza guerra mondiale, non ci sembra né un'esagerazione né un inutile allarmismo. Per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale si combatte in Europa una guerra asimmetrica con un serio rischio di escalation nucleare. È anche la prima guerra diretta tra Russia e NATO nella storia che coinvolge le maggiori potenze nucleari del pianeta, la Federazione Russa, gli USA, il Regno Unito, la Francia. La guerra è da sempre strumento di ristrutturazione economica per il capitalismo in crisi, accompagnata anche oggi da quelle politiche di interventismo statale tanto amate a sinistra che sono già state prodromi dei conflitti mondiali. La guerra è la forma più radicale di oppressione esercitata dagli stati e dai capitalisti contro gli sfruttati. Per questi motivi riteniamo che il conflitto in corso sia un attacco contro tutti i proletari. Iniziata nel 2014 con l'attacco contro le popolazioni russofone dell'Ucraina, questa guerra si colloca nel quadro strategico dell'espansione della NATO nell'Europa orientale. Tale espansione si è inserita nel giardino di casa e in termini economici nello spazio commerciale di una potenza militarista e autoritaria che, come dimostra tra gli altri esempi la feroce repressione della rivolta in Kazakistan nel gennaio 2022, non è disposta a tollerare alcun disordine all'interno della propria sfera di influenza. Gli esiti più drammatici sono pagati direttamente dalla popolazione ucraina e dalla gioventù russa arruolata in guerra, ma ne risentono indirettamente altre popolazioni. Quelle africane subiscono l'aumento del costo del grano e l'inasprimento dei conflitti regionali, mentre gli sfruttati occidentali assistono ad una crescente militarizzazione e al peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Dal 2014 in Ucraina sono state messe in atto una serie di feroci riforme antirusse e antipopolari che si sono intensificate in seguito all'invasione russa del 24 febbraio 2022. L'abolizione del russo come seconda lingua nelle zone dell'Ucraina sud-orientale, l'interdizione alle elezioni delle liste giudicate filorusse, la repressione religiosa nei confronti dei fedeli di rito russo ortodosso, le leggi di decomunistizzazione cosiddette, con pene fino a 10 anni di galera per il reato di propaganda comunista, la celebrazione con tanto di cerimonie ufficiali e dedica di monumenti del criminale di guerra Stepan Bandera, l'integrazione dei nazisti di Pravi Sektor e Svoboda nelle forze armate, a partire dalla Guardia Nazionale e dalla creazione dei famigerati battaglioni Udar e Azov. Le angherie, gli attentati, gli stupri, gli omicidi e i bombardamenti contro le popolazioni del Donbass, circa 14.000 morti tra il 2014 e il 2022, tra i quali centinaia di bambini. L'orribile strage di Odessa del 2 maggio 2014, quando manifestanti disarmati che chiedevano l'indipendenza dall'Ucraina, rifugiatisi nella locale casa dei sindacati, sono stati massacrati e bruciati vivi da una massa di nazisti armati escortati dalla polizia. Queste autentiche provocazioni, che si badi bene, nel colpire una parte della popolazione dell'Ucraina, hanno attaccato il governo e lo Stato russo, sia in termini di prestigio internazionale che di consenso interno, sono all'origine della guerra. Dal 2014 l'Ucraina è diventata una sorta di feudo degli Stati Uniti. Questi, insieme ai loro alleati, hanno realizzato ciò che non sono riusciti a compiere neppure nei paesi direttamente e militarmente invasi come l'Iraq, rendendo quello ucraino una sorta di Stato su misura per le multinazionali e il grande capitale occidentale. Solo per fare qualche esempio, già nel 2020 Zelensky ha abolito la moratoria sulla svendita delle terre nere ucraine, consegnando milioni di ettari alle coltivazioni OGM di Bayer e Monsanto, mentre con l'inizio dell'invasione russa sono stati stracciati i contratti collettivi delle aziende sotto i 200 dipendenti, ovvero la stragrande maggioranza delle imprese ucraine, ed è stato imposto il divieto di sciopero e di manifestazione. Continuiamo con la lettura del documento Sabotiamo la guerra, appello per una mobilitazione internazionale ed internazionalista contro la guerra in Ucraina. Il parallelo mediatico tra la resistenza ucraina alla lotta partigiana contro il nazifascismo e con le guerriglie di liberazione in generale è storicamente, politicamente ed eticamente inaccettabile. Lasciando perdere le profonde differenze di contesto storico e quel piccolo dettaglio che è la presenza dei gruppi nazisti dentro l'esercito ucraino, l'inaccettabilità del parallelo attiene proprio al rapporto tra mezzi e fini, cioè al per cosa e al come si combatte. Nella gran parte dei casi i partigiani erano disertori che combattevano contro l'esercito ufficiale del proprio Stato, mentre quello ucraino è un esercito regolare controllato dal governo in carica. La partecipazione alla lotta armata partigiana era libera e volontaria, mentre in Ucraina vige la legge marziale e chi si rifiuta di combattere finisce in carcere. L'autonomia politico-militare delle formazioni partigiane era legata anche ai mezzi di combattimento impiegati. Fucili, mitragliatrici, bombe a mano e bombe incendiarie possono essere usati senza un apparato coercitivo centralizzato, laddove droni collegati ai satelliti, lanciarazzi, carri armati, missili a lunga gettata riflettono e rimandano a una precisa gerarchia di comando, che è quello della NATO. La partecipazione di alcuni anarchici e militanti di sinistra alla guerra in corso comporta perciò l'essere inquadrati in questa stessa gerarchia, obbedienza agli ordini, individuazione degli obiettivi da parte dell'intelligence occidentale, subordinazione a un governo fortemente oppressivo e agli interessi del capitale internazionale. Tale adesione allo schieramento NATO implica la rinuncia a ogni prospettiva rivoluzionaria e internazionalista. Non da ultimo, sul piano etico, questa adesione sta comportando l'accantonamento di ogni critica nei confronti delle politiche autoritarie, repressive e antiproletarie del governo di Kiev. Dire questo non significa affatto abboccare la propaganda russa sulla operazione militare speciale finalizzata alla denazificazione dell'Ucraina. Non abbiamo alcuna simpatia nei confronti dell'odioso stato di polizia imposto dal governo russo alla sua popolazione. Non ci sfuggono le persecuzioni contro l'opposizione e gli anarchici in Russia e sosteniamo le molteplici forme di insubordinazione manifestatesi nella Federazione Russa e in Bielorussia contro la guerra. Come denunciamo l'imbroglio mistificatorio del mito della resistenza ucraina, allo stesso modo rigettiamo la suggestione in voga in certi ambienti circa una funzione emancipatrice mondiale svolta dal blocco russo-cinese. Non solo deprechiamo che gli sfruttati vadano a morire per gli interessi dei loro padroni e dirigenti, pure se nemici dei nostri nemici più immediati. Ma sappiamo bene che la guerra è prima di tutto un fatto di politica interna e il più atroce di tutti, come diceva Simone Weil, che qualsiasi Stato la combatta, la rivolge anche contro la propria popolazione e in particolare contro il proprio proletariato. Che la guerra rafforza sempre il potere delle classi dominanti sui dominati, intensificandone l'asservimento e lo sfruttamento. Approfitto in questi due minuti di pausa durante la lettura per dirvi che la band che stiamo ascoltando in sottofondo nel mio parlato, ma anche nelle pause precedenti, la band punk hardcore che stiamo ascoltando sono i Leisfa, che sarebbe l'acronimo di Luca e i suoi fantastici amici, che è una band di Genova, dal loro album Liturgie, Fallimenti e Sconfitte, album datato 2017, mentre per un po' che ascoltiamo anche nell'altro sottofondo parlato, la band femminile olandese delle Do or Die, che era un album uscito nel 1990. Comunque rimaniamo con questa band di Leisfa, Luca e i suoi fantastici amici. Quello in corso è anche un capitolo di uno scontro più generale per la supremazia tecnologica. Oggi, come mai prima nella storia, i nuovi ritrovati di morte possono distruggere la vita sul pianeta. Molte delle tecnologie utilizzate in questa guerra, quali i droni, i sistemi di intelligence e controllo, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e gli algoritmi predittivi, vengono sperimentate sul campo di battaglia per poi essere impiegate dalle polizie e dai tecnocrati di tutto il mondo. Storicamente lo sviluppo delle tecnoscienze conduce alla guerra e viceversa, la guerra implica necessariamente lo sviluppo delle tecnoscienze. Oggi tutte le tecnologie sono intrinsecamente duali, la separazione tra ricerca militare e ricerca civile è venuta meno, ammesso che sia mai esistita. Dunque non c'è da stupirsi che quanto viene sperimentato sui campi di battaglia sia poi impiegato contro i proletari in altre aree del mondo, compresi i paesi in pace. L'utilizzo e la sperimentazione delle nuove tecnologie intensificano il controllo delle popolazioni, rendendo ogni giorno più difficili le possibilità di liberazione dallo Stato e dal capitale. Oggi più che mai, uno Stato competitivo nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie assume maggiore importanza politica. L'industria tecnologica, dall'Occidente democratico al socialismo di mercato cinese, contribuisce a determinare le decisioni dei governi. Il conflitto in Ucraina, date le dimensioni e gli attori in campo, accelera la cosiddetta digitalizzazione, obiettivo presente nelle agende di numerosi Stati. Come accade in conflitti di tali proporzioni, a ogni fronte esterno corrisponde un fronte interno. La repressione non aumenta solo in Russia e in Ucraina, ma anche in tutti i paesi coinvolti nello sforzo bellico. Da sempre, operazioni di polizia e forme di detenzione speciale sono strettamente connesse all'acuirsi dei conflitti militari, allo scopo di ridurre al silenzio ed eliminare qualsiasi possibilità di dissidenza e conflitto reale. Ne sappiamo qualcosa in Italia con il 41 bis a cui è stato sottoposto Alfredo Cospito, la chiusura di giornali e siti internet d'area anarchica, lo stillicidio di operazioni repressive che hanno portato all'arresto di decine di anarchici antagonisti. Questa sorta di controinsurrezione preventiva è strettamente correlata alla crisi internazionale del capitalismo e alla tendenza alla guerra mondiale. Ed eccoci ancora con la lettura dell'appello per una mobilitazione internazionale ed internazionalista contro la guerra in Ucraina. Sabotiamo la guerra. Uno degli aspetti fondamentali della guerra in corso in Ucraina è quello della comunicazione. La realtà sul campo e la sua narrazione si sono spesso rivelate del tutto divergenti. Per fare solo alcuni esempi, l'attribuzione ai militari russi del bombardamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia e della distruzione dell'oleodotto Nord Stream appaiono come i casi più clamorosi di false notizie. Non solo. Quello a cui assistiamo è qualcosa di più di una informazione di parte, si tratta di vera e propria propaganda di guerra. Una propaganda che è in continuità con i livelli di condizionamento messi in campo durante il Covid per imporre la narrazione dominante e che presenta inoltre tragici rimandi ad episodi della Seconda Guerra Mondiale. Lo svilimento dei russi, con ad esempio le risibili notizie su un presunto equipaggiamento obsoleto e scadente, e la loro demonizzazione, l'esaltazione dei nostri eroi, tra virgolette, anche quelli dichiaratamente nazisti, le fantomatiche armi segrete che cambieranno il corso degli eventi. Questo tipo di informazione ci esplicita che siamo in guerra, anche se per ora questa non è combattuta a casa nostra. Quella dell'informazione è innanzitutto una guerra contro i nostri cervelli che mira ad arruolarci ed intrupparci, convincendoci che questo massacro è non solo inevitabile, ma anche giusto e conveniente. Per questo va chiarito che i responsabili di questa informazione sono parti integranti della macchina bellica e come tali vanno trattati. Per tutte queste ragioni e altre ancora, urge rilanciare l'iniziativa internazionalista per fermare la carneficina in atto e per evitare ulteriori pericolose escalation. Il nemico non sono i coscritti mandati a forza al fronte, non sono i lavoratori del paese avversario, ma sono tutti i padroni, i loro governi, i loro stati e i loro eserciti. Mentre le nostre sorelle e i nostri fratelli sono sottoposti alle più brutali atrocità, c'è una borghesia che si arricchisce con la produzione di armi e che specula sulle conseguenze della guerra. Spartizione e ricostruzione dell'Ucraina, macchine dell'accoglienza selettiva, inflazione, eccetera. Torniamo a mettere al centro la critica dello Stato e rifiutiamo di farci arruolare in qualunque fronte, nella convinzione che la sola forza che può fermare la guerra è la mobilitazione degli sfruttati di tutto il mondo. Internazionalismo per noi significa disfattismo, vale a dire la critica di ogni governo a partire dal nostro, l'attacco a tutti i padroni e le borghesie nazionali a partire da quelle che ci sfruttano ogni giorno. Quindi, da questo lato del fronte, vogliamo contrastare e sabotare il più possibile la NATO, cioè la principale alleanza militare del mondo, nonché braccio armato del capitalismo occidentale, proprio come i nostri fratelli e sorelle in Russia lottano contro la macchina militare del loro campo. Come ci dicono ad esempio le notizie riguardo i sabotaggi contro infrastrutture che trasportano truppe e mezzi o gli attacchi contro i centri di reclutamento. E proprio come altri fratelli e sorelle in Ucraina si oppongono allo sforzo bellico del loro governo. Nonostante la censura, sappiamo che anche in Ucraina c'è chi fa propaganda e agitazione contro la guerra e c'è chi vi si oppone nei fatti, ad esempio aiutando fuggiaschi e disertori a lasciare il paese o dando loro rifugio. Anche questo è coerente disfattismo. Il nostro orizzonte, in quanto anarchici, è quello disfattista, anche perché la storia ci insegna che sempre e solo nella rovina del proprio Stato che si aprono, per gli oppressi, prospettive di rivoluzione. Intendiamo il disfattismo come atto di solidarietà nei confronti di chi paga il prezzo della guerra sulla propria pelle e come atto di vendetta di classe per le sofferenze patite dalle nostre sorelle e dai nostri fratelli in tutte le zone di conflitto militare. Siamo solidali con tutte le vittime di guerra in ogni angolo del pianeta, solidali con chi ne fugge e trova gli ostacoli delle frontiere, con chi trova la morte via terra e via mare e quando sopravvive viene spesso sottoposto a un brutale sfruttamento. Se non sapremo rompere tutti i fronti, attaccando ciascuno il proprio Stato e le proprie classi dominanti, l'annientamento dell'umanità o il suo asservimento sempre più spietato in una situazione di guerra infinita sono semplicemente dietro l'angolo. Viceversa, potrebbero aprirsi delle possibilità rivoluzionarie. Anche se al momento non si sono manifestati movimenti consistenti di opposizione alla guerra, bisogna anche evidenziare come, nonostante la propaganda martellante, una parte consistente della popolazione, anche all'interno dell'Occidente, è contraria a supportare lo sforzo bellico. Questo è un aspetto che va considerato nella prospettiva della costruzione di una mobilitazione di massa. Facciamo quindi appello alla costruzione di una mobilitazione radicale, internazionale e diffusa, che sabotando la guerra abbia l'ambizione di imporre dal basso la cessazione delle ostilità. Non abbiamo nulla da chiedere ai governi, né riponiamo in questi alcuna fiducia, ma siamo consapevoli che l'azione diretta degli sfruttati in tutto il mondo è la sola forza reale che può porre fine al massacro. Per questo noi riteniamo che sia necessario opporsi alla macchina bellica, tanto in Russia quanto in Ucraina, quanto all'interno dei paesi capitalisti occidentali, che sono responsabili di questo conflitto e di tutte le principali guerre degli ultimi 30 anni. Sosteniamo la diserzione su tutti i fronti, offrendo rifugio e solidarietà a tutti coloro che, sottraendosi alla coscrizione militare, si rifiutano di prendere parte al massacro. Sabotiamo la macchina militare, inceppiamo la produzione bellica e blocchiamo i flussi della logistica militare. Smascheriamo la macchina del consenso e della propaganda. In questa guerra ibrida, i media sono parte integrante dell'apparato bellico. Opponiamoci all'occupazione militare dei territori, contestando e contrastando le basi militari, le esercitazioni di guerra e la militarizzazione della vita pubblica. Sosteniamo l'esigenza di un vero sciopero generale che, superando forme rituali e di testimonianza, fermi concretamente l'industria e la logistica dei paesi coinvolti. Smascheriamo la complicità dell'università e della ricerca con l'apparato industriale militare e gli interessi economici capitalisti alla base di ogni guerra. Spingiamo per rovesciare la guerra dei padroni in guerra contro i padroni. What are we waiting for? Higher! Ecco, e adesso abbiamo ascoltato nuovamente la band Guerra e dal loro album, come già presentato prima, è uscito la scorsa primavera, che si intitola Quanta fame hai, e loro appunto sono il gruppo della Romagna, Guerra. Ora invece andiamo all'ascolto di questa band romana. Loro sono i Threat of Riot, da un CD, diciamo un CD split con altre due band, che hanno fatto uscire una decina di anni fa, forse anche un po' di più. Comunque, ascoltiamo i Threat of Riot. Sì, allora, la lunga lettura, così, che si è conclusa poco fa, era la lettura di questo Sabotiamo la guerra, appello per una mobilitazione internazionale ed internazionalista contro la guerra in Ucraina, redatta da anarchici e anarchici provenienti da varie zone, come dicevo prima, d'Italia. Trovate il documento completo sul rovescio, e per contatti c'è una mail: appello antimilitarista chiocciola anche.no. E rimaniamo in argomento di antimilitarismo, parlando di una iniziativa che si svolgerà a Trieste domenica prossima, domenica 17 settembre, e praticamente un corteo contro la NATO e contro il militarismo, organizzato da il coordinamento No Green Pass e Oltre di Trieste. E allora ci si incontrerà alle 11 in Piazza della Borsa, per poi andare verso le rive. Perché? Perché appunto, per 5 giorni, a partire da domenica 17 settembre, la portaerei Ford, che è la prima nave della nuova classe di portaerei a propulsione nucleare, è praticamente una super portaerei, sarà a Trieste. Questa nave nucleare sarà a Trieste e ci resterà appunto 5 giorni, e quindi era importante dare un segnale, insomma, di rifiuto assoluto di questa gravissima militarizzazione del territorio. E tra l'altro è stato proprio detto che la presenza di questa portaerei Ford a Trieste è un segnale verso la guerra in Ucraina, anche perché praticamente la portaerei Ford in questo momento si trova nel centro dell'Adriatico ed è pronta a compiere azioni deterrenti nell'ambito del conflitto russo-ucraino, e sta svolgendo esercitazioni con l'ammiraglia turca. E va detto che dallo scoppio della guerra in Ucraina le acque del Mediterraneo sono state attraversate da una crescente tensione, arrivando in alcuni momenti a vedere in mare addirittura 4 gruppi di portaerei alleate, cioè quello italiano, francese, americano e spagnolo. queste presenze inquietanti alleate rappresentano per appunto per la NATO e per gli eserciti alleati delle risposte alla presenza dei sottomarini russi. E qual è, diciamo, il pericolo che si vuole scongiurare? Quello del rischio di attacchi russi ai gasdotti e anche ai cavi sottomarini per le telecomunicazioni. E ricordiamo che nel 2022, sempre a Trieste, era approdata la portaerei Truman e adesso appunto questa portaerei Ford. Sì, una cosa spaventosa, se andate a vedere... Io sono andata a fare una ricerca per vedere com'è fatta, è una cosa spaventosa, appunto, un bestione lungo 340 metri, spinto da due reattori nucleari che tra l'altro millantano, insomma, questi i militarazzi millantano che abbia un'autonomia praticamente infinita, in quanto e il combustibile nucleare ha una durata di circa 20-25 anni. Pensate che dentro questo bestione ci stanno 5.000, un equipaggio di 5.000 militari e può portare 75 velivoli da guerra. Quindi una cosa veramente orrenda e contro la quale è importante mobilitarsi, non farla passare e appunto opporsi in ogni modo. fascismo, della borghesia statunitense e dell'Unione Europea. E nel nome di questi interessi completamente estranei alla classe degli sfruttati, che adesso scorre il sangue dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Ucraina, del Donbass, figli e figli della classe operaia, sciopero selvaggio internazionalista, disfattismo e diserzione, sono le uniche parole d'ordine possibili per la guerra di classe! Sì, e così quando mancano circa un quarto d'ora, insomma, alla fine della trasmissione di stasera, Zadis Magnetics, ritorniamo in voce per... Allora, intanto in questo fine settimana ci sono tantissime così iniziative importanti in vari luoghi. Io però darò spazio a una iniziativa che si svolgerà qui a Udine, invitandovi anche a partecipare chi può, e cioè sabato 16 settembre nello spazio autogestito di Via De Rubeis 43 a Udine c'è un concerto benefit, Inguaiati e Inguaiate con la repressione, e faranno cose queste Blind Babies and the Bitches Noise, che è un neogruppo musicale udinese. L'iniziativa è organizzata dalla laboratoria Trans Femme Queer e la serata prevede alle ore 20 un buffet vegan a offerta libera e poi a seguire concerto. È un'iniziativa benefit, ci dicono le compagne, perché la solidarietà è un'arma e noi la impugniamo volentieri per sostenere chi generosamente si espone contro le varie oppressioni sistemiche e le ingiustizie che colpiscono tutti noi e quindi viene preso di mira dagli sgherri dello Stato. Naturalmente no fascismo, no razzismo, no sessismo, no omotransfobia, no sbirri e co all'interno dello spazio. Ricordo ancora, allora, sabato 16 settembre dalle ore 20 circa nello spazio autogestito di Via De Rubeis, Blind Babies and the Bitches Noise, concerto benefit, Inguaiati e Inguaiate con la repressione. Another's love. watch? Who's your leader? Which is your flock? Who's your leader? Which is your flock? Who's your leader? Which is your flock? Who's your leader? Which is your flock? Einstein had an idea from the confusion of his knowledge. Then there are a thousand more turning to advantage. They realized the burn board was dead, so they reclaim power through the bomb instead. Another's cold, another's free. They shot us all in deadly rain. Jesus had an idea from the confusion of his soul. At a distance from the side you have chosen, whose answers serve you best, who will save you from confusion, who will leave you an exit and a comfortable cover, who will take you oh so near their edge but never drop you over. Watch, watch, you watch, you watch, who do you watch, who do you watch, who do you watch, who do you watch, who do you watch, who do you watch, who do you watch, who do you watch, who do you watch, who do you watch, who do you watch, who do you watch? Sulle note di questa musica così diciamo anche un po' particolare, comunque questo erano i Cress con dall'album Penny's Envy e datato 1981. Poi invece volevo ricordare che prima c'è stato così tra una pausa e l'altra abbiamo ascoltato tre brani proprio belli tosti, appunto tre brani che tra l'altro che altro dire, sono l'ultima uscita discografica di una band di Viterbo, i Tear Me Down, che così per ricordare anche i titoli, il contenuto del contesto: stereotipi sociali, guerra alla guerra dello Stato. Comunque questa è un'uscita datata 2023, periodo di gennaio-febbraio, uno split 7 pollici, ben registrato e ben curato in tutto, e questi Tear Me Down hanno condiviso appunto questo split assieme ai Contrasto. Questo 7 pollici si chiama Vecchia Scuola. Bene, e rimaniamo ancora in sottofondo con questo album Penny's Envy, datato 1981. Round and round, we're looking for the problem. Bene, rimaniamo ancora con in sottofondo i Cress, band storica dell'anarcho-punk inglese della fine degli anni Ottanta, e questo è il loro album Penny's Envy, datato 1981. Tutto questo quasi alle ore 21:30, che è l'orario di conclusione di questo programma radiofonico che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta dagli studi di Radio Onde Furlane. È un programma che inizia alle ore 20 e di conseguenza l'appuntamento è per il prossimo giovedì. Ma prima di concludere definitivamente la trasmissione, vi ricordo i nostri contatti, che se volete scriverci alla casella di posta elettronica potete farlo scrivendo a liberetutti@autistiche.org, oppure potete scrivere in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo che questa trasmissione, ma anche quelle dei giovedì scorsi, potete andare a riascoltare tutto nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, adesso siamo proprio così agli sgoccioli. Ricordo, anzi salutiamo anche chi ci ascolterà domani dalle ore 17 in replica su Radiazione, che è una web radio. Bene, ciao a tutti, vi lascio con un ultimo brano da questa band di Milano, che ovviamente è per me impossibile capire, mi ero preparato comunque, ecco, ci sono. Loro sono La Città Dolente, band dell'area di Milano, e questo è il loro ultimo, anzi credo l'unica uscita su CD, l'unico album, è Sales People. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.